del Ducato di Bontà. Messer Duca dorme già. L'indomani sposerà Monna Lisa di Beltà. Sposerà. Ma purtroppo a Belzebù quel matrimonio non va giù. Sembra un inno alla virtù. Giù a Belzebù, mentre dorme in libertà Monna Lisa di Beltà. Lui le ruba un fiore e poi se ne va. Messer Duca non lo sa, ma domani piangerà. Ma purtroppo a Belzebù quel matrimonio non va giù. Sembra un inno alla virtù. A Belzebù, mentre dorme in libertà Monna Lisa di Beltà. Lui le ruba un fiore e poi se ne va. La la la la la.